Ad alta voce. Tommaso Ragno legge I 10 giorni che sconvolsero il mondo di John Reed. Traduzione di Barbara Gambaccini. I 10 giorni che sconvolsero il mondo rappresenta un frammento di storia come io l'ho vissuta. Un resoconto dettagliato della rivoluzione di novembre, quando i bolscevichi, impossessatisi del potere con l'aiuto di operai e soldati, lo conferirono ai soviet. Naturalmente questo capitolo riguarda per lo più la rossa Pietrogrado, capitale e cuore dell'insurrezione, ma ritengo che il lettore sia ormai consapevole di come ciò che accadeva a Pietrogrado si ripercuotesse, seppure in tempi diversi e con maggiore o minore intensità, su tutta la Russia. Questo libro, il primo di una lunga serie che mi accingo a scrivere, rappresenta una fedele cronaca di quegli eventi a cui ho per lo più assistito personalmente, ad esclusione di alcuni episodi appresi da fonti inconfutabili. A precedere due capitoli, che per il loro delineare brevemente contesto e cause della rivoluzione, reputo essenziali per la comprensione di quanto segue. Il lettore si porrà forse innumerevoli quesiti. Cos'è il bolscevismo? E quale la struttura del suo governo? Se i bolscevichi sostennero l'assemblea costituente prima della rivoluzione, perché in seguito ne fecero disperdere i partecipanti con le armi? E se la borghesia si schierò contro la costituente fino alla comparsa del pericolo bolscevico, per quale motivo ne sostenne successivamente la convocazione? A questa e a molte altre domande non ho potuto rispondere nelle pagine che seguono. Nel libro Kornilov to Brest-Litovsk, dove prosegue il racconto degli accadimenti fino alla pace con la Germania, spiego l'origine e le funzioni delle organizzazioni rivoluzionarie, l'evoluzione del sentimento popolare, lo scioglimento dell'Assemblea Costituente, la struttura dello Stato sovietico e tutti gli eventi che portarono ai negoziati di Brest-Litovsk. Nel considerare l'ascesa dei bolscevichi, è necessario comprendere che il caos in cui precipitò la Russia sul piano economico e militare non ebbe inizio il 7 novembre 1917, bensì molti mesi prima, come logica conseguenza di un lungo processo principiato nel 1915. I reazionari corrotti che controllavano la corte dello zar si erano infatti deliberatamente impegnati per distruggere la Russia allo scopo di realizzare una pace separata con la Germania. La carenza di uomini al fronte, causa della grande ritirata dell'estate 1915, la scarsità di cibo nell'esercito e nelle grandi città, il crollo dei settori manifatturiero e dei trasporti nel 1916, facevano tutti parte di una gigantesca campagna di sabotaggio, la cui esecuzione fu arrestata appena in tempo dalla rivoluzione di marzo. Durante i primi mesi del nuovo regime, nonostante la confusione innata a ogni grande rivoluzione in cui milioni di persone, appartenenti a un popolo oltremodo oppresso, improvvisamente ottengono la libertà, si ebbe un effettivo miglioramento sia nella situazione interna, sia nella capacità di combattimento dell'esercito. Eppure fu una parentesi di breve durata. Le classi possidenti, decise a impadronirsi del potere a discapito dello zar, miravano a una rivoluzione esclusivamente politica, auspicando la fondazione di una repubblica costituzionale come in Francia e negli Stati Uniti, o di una monarchia costituzionale come in Inghilterra. Dall'altra parte le masse parevano decise a ottenere una reale democrazia industriale e agraria. William English Walling, nel suo libro Russia's Message, relativo alla rivoluzione del 1905, descrive con eloquenza lo stato d'animo degli operai russi che avrebbero in seguito sostenuto, pressoché all'unanimità, il bolscevismo. Loro, gli operai, sapevano che avrebbero continuato a morire di fame anche in un libero governo, qualora questo fosse caduto nelle mani di altre classi sociali. L'operaio russo, per quanto rivoluzionario, non è violento, né dogmatico, né stupido. È pronto per le barricate, ne ha studiati i meccanismi e, caso unico rispetto ai proletari di altri paesi, ha imparato tutto ciò per esperienza diretta. Risoluto a portare a compimento la lotta contro l'oppressore, la classe possidente. Non ignora l'esistenza di altri ceti sociali a cui chiede con semplicità, data l'imminenza dello scontro, di prendere una posizione. Gli operai si sono dichiarati d'accordo nel definire le nostre americane istituzioni politiche preferibili alle loro, ma non paiono altrettanto ansiosi di scambiare un despota con un altro, ad esempio la classe capitalista. Giustiziati a centinaia a Mosca, Riga e Odessa, imprigionati ed esiliati a migliaia nel deserto e nelle regioni artiche, gli operai russi non hanno combattuto per conquistare i discutibili privilegi degli operai dei Goldfields e di Cripple Creek. Nel corso della guerra si sviluppò in Russia, come inevitabile conseguenza della rivoluzione politica, quella rivoluzione sociale che culminò nel trionfo del bolscevismo. A.J. Sack, direttore dell'ufficio informazioni russe negli Stati Uniti e strenuo oppositore al governo sovietico, scrive nel suo libro The Birth of the Russian Democracy: i bolscevichi organizzarono il proprio consiglio dei ministri ponendo Lenin come presidente e Trotsky come ministro degli affari esteri. L'inevitabilità della loro ascesa al potere divenne evidente subito dopo la rivoluzione di marzo. La storia dei bolscevichi a seguito della rivoluzione è la storia della loro progressiva potenza. Gli stranieri, e gli americani in particolare, spesso tendono a sottolineare l'ignoranza degli operai russi. Seppure le loro carenze fossero innegabili, se paragonate all'esperienza politica dei popoli occidentali, essi avevano incredibili capacità auto-organizzative. Nel 1917 le cooperative di consumo contavano più di 12 milioni di membri e lo stesso sistema dei soviet costituiva un perfetto esempio del genio organizzativo russo. Inoltre, non esisteva al mondo un popolo altrettanto istruito nella teoria e nella pratica socialista. Così descriveva William English Walling la classe operaia russa. La popolazione lavoratrice russa è per lo più in grado di leggere e scrivere. Per molti anni i turbamenti in cui versava il paese hanno fatto sì che la classe operaia fosse guidata da intellettuali e personalità rivoluzionarie istruite, capaci di trasmettere loro idee politiche e sociali fondamentali per la rinascita della Russia. Molti scrittori spiegano la loro ostilità nei confronti del governo sovietico, sostenendo che l'ultima fase della rivoluzione russa sia stata semplicemente una lotta degli elementi rispettabili contro gli attacchi brutali del bolscevismo. In realtà furono le classi abbienti che, compresa la portata del potere rivoluzionario popolare, si adoperarono per distruggerlo allo scopo di arginare la rivoluzione. A tal fine, i ceti elevati ricorsero a misure disperate. Con l'obiettivo di annientare il ministero di Kerensky e i soviet, furono resi inefficienti i trasporti e provocati innumerevoli disagi interni. Per schiacciare i comitati di fabbrica, gli impianti furono distrutti e i rifornimenti di carburante e materie prime deviati. Per sopprimere i comitati dell'esercito al fronte, fu ripristinata la pena capitale e cagionata la disfatta militare. Questo non fece altro che gettare benzina sul fuoco. I bolscevichi ribatterono predicando la lotta di classe e affermando la supremazia dei soviet. Tra le varie fazioni che con maggiore o minore entusiasmo li sostenevano, erano posizionati i cosiddetti socialisti moderati, i menscevichi, i socialisti rivoluzionari e tutta una serie di raggruppamenti minori. Per quanto anch'essi fossero avversati dalle classi abbienti, le loro stesse idee ne smorzavano il desiderio di rivalsa. Menscevichi e socialisti rivoluzionari, nel ritenere la Russia non ancora economicamente matura per una rivoluzione sociale, reputavano possibile unicamente un rinnovamento di stampo politico. Secondo la loro interpretazione, le masse russe non erano abbastanza istruite per assumere il potere e qualsiasi tentativo di perseguire tale obiettivo avrebbe inevitabilmente provocato il rischio di ripristinare il vecchio regime. Per questo, quando i socialisti moderati furono costretti a prendere le redini del potere, parvero intimoriti dal compito di farsene carico. Pensavano che la Russia dovesse dapprima attraversare le fasi della politica e dello sviluppo economico conosciuto nell'Europa occidentale, per poi risorgere insieme al resto del mondo come paese socialista a pieno titolo. Essi concordavano pertanto con le classi possidenti sul fatto che la Russia, seppure con qualche miglioria rispetto alle democrazie occidentali, dovesse diventare in primo luogo, uno stato parlamentare, e in conseguenza a ciò optarono per un'effettiva collaborazione delle classi agiate con il governo. Da qui a sostenere la politica, il passo è stato breve. Se i socialisti moderati necessitavano del consenso della borghesia, questa non abbisognava del loro. Fu così che i ministri socialisti dovettero sopprimere a poco buona parte del loro programma, mentre l'influenza delle classi possidenti si faceva sempre più consistente. E allorché i bolscevichi abbatterono l'intero castello di vacui compromessi, menscevichi e socialisti rivoluzionari si trovarono a lottare al fianco della borghesia. Tutt'oggi, in molti paesi si assiste al medesimo fenomeno. Lungi dall'essere una forza distruttiva, ritengo che i bolscevichi fossero l'unico partito in Russia dotato di un programma costruttivo e del potere di imporlo sul paese. Se non fossero andati al governo, è indubbio che le armate della Germania imperiale sarebbero presto giunte a Pietrogrado e a Mosca, e la Russia sarebbe tornata ai tempi dello zar. È ancora di moda, dopo un intero anno di governo sovietico, parlare dell'insurrezione bolscevica come di un'avventura. Ebbene, se di ciò si è trattato, possiamo inserirla tra le più meravigliose in cui si sia impegnata l'umanità, quella che concesse alle masse operaie il tributo della storia, scommettendo tutto sulle loro semplici e immense aspirazioni. Già era stato istituito un meccanismo in base al quale la terra della grande proprietà sarebbe stata distribuita ai contadini. I comitati di fabbrica e i sindacati erano sul punto di porre le industrie sotto il controllo operaio. In ogni villaggio, città, distretto e provincia erano presenti operai, soldati e contadini sovietici pronti ad assumersi il compito dell'amministrazione locale. Quale che sia l'opinione maggiormente diffusa sul bolscevismo, è innegabile che la rivoluzione russa abbia costituito uno dei più grandi eventi della storia umana e l'ascesa dei bolscevichi un fenomeno di importanza mondiale, così come gli storici indagano i minimi particolari della storia della Comune di Parigi. Allo stesso modo, essi vorranno sapere quanto accaduto a Pietrogrado nel novembre del 1917, lo spirito che animava il popolo e i pensieri, le azioni e gli atteggiamenti dei loro leader. In questa prospettiva ho voluto scrivere le pagine che seguono. Ammetto che nella lotta le mie simpatie non erano neutrali. Eppure, nel raccontare la storia di quei grandi giorni, ho cercato di osservarne gli eventi con l'occhio di un cronista coscienzioso, interessato a scrivere la pura e semplice verità. John Reed, New York, 1 gennaio 1919. Capitolo primo. Le origini. Il mese di settembre del 1917 volgeva al termine quando uno straniero, un professore di sociologia in visita in Russia, venne a trovarmi a Pietrogrado. Alcuni uomini d'affari e intellettuali lo avevano informato che la rivoluzione si stava avviando verso una rapida conclusione. Esposto questo parere in un articolo, nel tentativo di verificarlo di persona, si era messo prontamente in viaggio, ma non appena giunto nei grandi centri industrializzati e nelle comuni contadine, con sommo stupore, si era dovuto ricredere. Il fermento dell'insurrezione non sembrava intenzionato a placarsi. Nelle città come nelle campagne risuonavano ripetute rivendicazioni di terra per i contadini e fabbriche per gli operai. Se il professore si fosse diretto al fronte, avrebbe altresì constatato che l'intero esercito esprimeva un profondo desiderio di pace. In realtà, a dispetto del suo sconcerto, entrambe le osservazioni apparivano corrette. Se i ceti benestanti divenivano infatti sempre più conservatori, le masse popolari tendevano verso un atteggiamento estremamente radicale. Secondo uomini d'affari e intelligenza, la rivoluzione proseguiva da troppo tempo e ben presto, esaurito il proprio corso, si sarebbe tornati alla stabilità. Un sentimento condiviso dai gruppi socialisti moderati, dai menscevichi guerrafondai e dai socialisti rivoluzionari che secondavano il governo provvisorio di Kerensky. Il 14 ottobre così era scritto nell'organo ufficiale dei socialisti moderati. La tragedia rivoluzionaria è composta da due atti: annientamento del vecchio regime ed edificazione di quello nuovo. Essendo il primo perdurato abbastanza, occorre passare al secondo facendo in modo che la sua realizzazione avvenga nel più breve tempo possibile. Per citare un famoso rivoluzionario, affrettiamoci, amici, a terminare la rivoluzione. Chi la prolunga troppo non ne raccoglierà i frutti. Eppure, operai e contadini sembravano affatto restii a credere che il primo atto fosse giunto al termine. Se al fronte i comitati dell'esercito parevano costretti a un'incessante lotta contro gli ufficiali, recalcitranti all'idea di riservare ai propri subalterni un trattamento da esseri umani, all'interno del paese i tentativi dei comitati agrari, eletti dai contadini, di far applicare le disposizioni ufficiali nella questione della terra venivano ripetutamente soppressi, e nelle officine gli operai si confrontavano quotidianamente con liste nere e serrate. Peggiore appariva la situazione degli esiliati politici tornati in patria, i quali, etichettati quali indesiderabili, venivano nuovamente allontanati o perfino, come a taluni accadde, processati e imprigionati per atti rivoluzionari compiuti nel 1905. Innanzi alle espressioni di malcontento popolare, i socialisti moderati reiteravano una sola risposta: dovete attendere l'assemblea costituente che si riunirà a dicembre. Affermazione che i più ritenevano a dir poco deludente. Pur senza sminuire il valore di tale adunanza, ci si chiedeva infatti se i veri obiettivi alla base della rivoluzione russa, i cui martiri imputridivano nel sepolcro fraterno del campo di Marte, fossero stati dimenticati. Indipendentemente dalla Costituente, la cui convocazione era stata più volte procrastinata nella speranza che la popolazione rabbonita avrebbe mutato le proprie convinzioni, permanevano immutati gli iniziali ideali di pace, terra e controllo operaio sull'industria. Eppure, dopo 8 mesi di rivoluzione, i risultati parevano alquanto esigui. In questo contesto, i soldati presero a reputare la diserzione quale il modo migliore per porre fine alla questione della pace. Mentre i contadini ovviavano al problema della terra incendiando castelli e assumendo il controllo delle grandi proprietà, e il popolo delle fabbriche perseverava in scioperi e atti di sabotaggio. Naturalmente ufficiali, proprietari terrieri e imprenditori facevano leva sulla propria influenza per eludere qualsiasi provvedimento democratico. La politica del governo provvisorio oscillava così tra vane riforme e spietata repressione. Un decreto del ministro socialista del lavoro impose ai comitati il veto di riunione durante le ore lavorative, mentre al fronte i demagoghi dell'opposizione venivano arrestati, i giornali di sinistra proibiti e i propagandisti rivoluzionari condannati a morte. Furono perfino effettuati tentativi per disarmare le guardie rosse e i cosacchi vennero inviati in provincia per mantenere l'ordine. Questi i provvedimenti avallati dai socialisti moderati, i cui capi, insidiatisi al governo, giudicavano imprescindibile la collaborazione con i ceti elevati. Comprensibilmente, il popolo fu lesto a volgere il proprio consenso verso i bolscevichi, nel cui programma figuravano ancora quali ambiti obiettivi: pace, terra, controllo dell'industria e governo operaio. Nel settembre del 1917, nonostante il disaccordo espresso dalla stragrande maggioranza del paese, Kerensky, socialisti moderati e socialisti rivoluzionari formarono un governo di coalizione con le classi possidenti, perdendo una volta per tutte la fiducia della popolazione e determinando un ulteriore acutizzarsi delle ostilità. Tutto ciò contribuì a incrementare il consenso riscosso dai bolscevichi. Nel mese di marzo una moltitudine di operai e soldati si era abbattuta come un mare in tempesta sul palazzo di Tauride, costringendo la riluttante Duma imperiale ad assumere il potere supremo. Da quel momento furono operai, soldati e contadini a imporre tutti i cambiamenti di rotta della rivoluzione. Furono loro a rovesciare il governo Miliukov e il loro Soviet a gridare al mondo le condizioni della pace russa. Nessuna annessione, nessuna indennità e pieno diritto dei popoli di autodeterminazione. In luglio il proletariato, nonostante la totale disorganizzazione insita in ogni spontanea sollevazione, espugnò il palazzo di Tauride esigendo che i Soviet assumessero il governo del paese. Il 15 ottobre intervistai il noto capitalista Stefano Georgievich Liazanov, il Rockefeller russo e cadetto per opinione politica. «La rivoluzione», affermò, «è una malattia. Presto o tardi le potenze straniere dovranno intervenire, come si interviene di fronte a un fanciullo malato per guarirlo o a un infante per insegnargli a camminare. Per quanto le misure intraprese possano non apparire adeguate, le nazioni non possono accettare inermi il diffondersi del pericolo bolscevico, né la propaganda di idee fortemente contagiose quali la dittatura proletaria e la rivoluzione mondiale. Vi è una sola possibilità per la quale tale ingerenza esterna potrebbe essere evitata. Nei trasporti regna il più totale sconforto. Le fabbriche sembrano prossime al fallimento. L'avanzata tedesca pare inarrestabile. Forse la fame e la sconfitta indurranno il popolo russo a una maggiore ragionevolezza. Il signor Liazanov si disse inoltre convinto che mai, per nessun motivo, commercianti e industriali avrebbero accettato la presenza dei comitati di fabbrica né consentito agli operai un'attiva partecipazione a livello direttivo. Per quanto concerne i bolscevichi, non vi sono che due mezzi per sbarazzarsene: evacuare Pietrogrado, dichiarando lo stato d'assedio, così che i militari possano eliminare quei signori senza preoccuparsi di agire legalmente, oppure, nel caso in cui l'assemblea costituente manifestasse anche solo la minima tendenza utopista, costringerla con la forza a sciogliersi.